Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, apriamo la puntata di questa sera con tre storie che hanno in qualche modo tutte a che fare con il corpo dal punto di vista del rapporto tra fisico e digitale, quella di un libro, di una startup e di un fashion blogger da milioni di follower. Dalle app ai viaggi, passando per i braccialetti smart, i raduni e le campagne dedicate, siete stati contagiati anche voi dalla running mania. Ne parliamo nel focus sui trend prima della riflessione finale dedicata invece al concetto di emergenza. Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande. D'accordo. Lei è socievole o asociale? Ultimamente non sono stato molto socievole. Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? La digitalizzazione delle nostre vite impone nuove riflessioni sull'equilibrio tra on e offline, sulle esperienze reali e virtuali, esperienze di vita così come di consumo, di servizio. Partiamo allora dagli stimoli di un libro dal titolo molto accattivante, Il sex appeal dei corpi digitali, sottotitolo Seduzione, amore, tradimenti, malattie e immortalità dei nostri digital body. Un libro che indaga il rapporto tra corpo reale e digitale. L'autore è Luca Poma, con lui siamo partiti dalla definizione di corpo digitale. È l'insieme di tutte le tracce che noi lasciamo sul web, di tutte le nostre rappresentazioni digitali, di tutti i nostri profili, delle nostre pagine, che va a costituire a tutti gli effetti ormai quasi un doppio, un nostro doppio, un'entità quasi autonoma che ci rappresenta e che a volte è più importante del nostro vero e proprio corpo reale. Nel libro la tesi provocatoria secondo cui il coinvolgimento emotivo, ma non solo, della nostra vita online influenzerebbe anche la nostra mappa cerebrale. Più che tesi, ormai diciamo una realtà scientificamente acclarata, il fatto che tutti i fattori di benessere e di stress che ci circondano in qualche modo influiscono sulla nostra biologia. Lo stress che si realizza sulle piattaforme online accentua la produzione di cortisolo, che è appunto un ormone, l'ormone dello stress, o viceversa le cose positive che succedono stimolano la produzione di endorfine, che sono le molecole del benessere, se così vogliamo dire. Allora ecco che tutto il nostro coinvolgimento emotivo su Facebook, su Twitter, tutti gli attacchi che riceviamo anche quotidianamente sulle nostre piattaforme digitali sicuramente influenzano il nostro organismo e la capacità addirittura di resistere alle malattie. Gli studi più recenti ipotizzano addirittura che ci possa essere un'influenza anche sul patrimonio genetico delle persone. Fondamentale il tema della consapevolezza. Ma certo che sì, hai perfettamente ragione, il tema della consapevolezza è centrale ed è un po' il senso di questo libro, che in fondo racconta delle storie documentate allo scopo di aumentare la consapevolezza delle persone. Non c'è niente di male nei digital media, nei social network, eccetera. Io stesso li uso tutti i giorni per lavorare. Sono degli strumenti che sono diventati indispensabili, ma dobbiamo essere consapevoli di come funzionano, di quali sono le trappole. Questo è proprio il senso del libro, raccontare questi limiti e rimettere al centro le persone, la loro consapevolezza, anche del fatto che sui nostri dati, non dobbiamo nascondercelo, viene fatto del business. In chiusura vorrei chiederti che cosa pensi della filter bubble, la bolla così definita dagli studiosi, attraverso la quale, in relazione agli algoritmi che fanno funzionare i vari social network, quella parte di internet più simile a noi ci racconta il mondo, che in realtà non è tutto il mondo. È un mondo che in qualche modo è costruito addosso a noi. Questo è il famoso Daily Me di Facebook. Facebook dice: lo facciamo per dare agli utenti quello che più si aspettano di trovare in linea con le proprie aspettative. In realtà costruisce un mondo intorno a noi, uno scaffale di supermercato dove ci sono sempre solo i prodotti che a noi piacciono e che ci piace di trovare, azzerando completamente lo spirito critico e costruendo un mondo completamente artificiale. Ebbene, su questo, sulla capacità di dialogare e sulla capacità di convivere con le diversità, si gioca effettivamente la nostra libertà per il prossimo millennio. Ha a che fare con il corpo digitale anche la startup che vi stiamo per raccontare. Si chiama Lanieri.com, è il primo e-commerce italiano di sartoria su misura, servizio su misura online. Sembra quasi una contraddizione in termini. Simone Maggi è il cofondatore. Noi vogliamo proprio portare la sartoria ad un livello digitale. Quindi quello che noi ci sentiamo dire che siamo proprio il sarto digitale, cioè abbiamo digitalizzato una professione come quella della sartoria. Come funziona? Allora, il processo è molto semplice. Tutto quello che si potrebbe fare dal sarto noi l'abbiamo portato online. Quindi la persona, il cliente, sceglie il tessuto che lui più piace e poi può farsi inviare a casa un campione di tessuti, fino a 5 tessuti, ed un costo irrisorio, costo che poi viene tolto dal successivo acquisto se in caso il cliente effettua un ordine. Poi, una volta che ha scelto il tessuto, arriva la personalizzazione. Quindi sceglie 2 bottoni, 3 bottoni, la giacca, le fodder, le personalizzazioni, tutto quello che uno fa dal sarto. Ultimo step è quello della presa misura. Abbiamo creato un video tutorial molto molto semplice per permettere al cliente di vedere quali sono gli step per tutte le varie misure che servono per l'abito. Molti ci dicono anche però il primo approccio online è difficoltoso, ed ecco perché abbiamo creato una serie di atelier offline. In questo momento ne abbiamo 4, Milano, Roma, Torino e Bologna in Italia, con le prossime aperture di Parigi, Monaco e di Baviera, e all'interno di queste atelier le persone possono farsi prendere le misure e toccare con mano direttamente i tessuti. Voi avete pensato anche a un configuratore 3D. Nasce dall'esigenza dei clienti nel dire: sì, però io dal pezzettino di tessuto faccio fatica a immaginarmi un capo completo. Ed ora abbiamo creato un configuratore in computer grafica dove l'utente può cambiare le varie personalizzazioni e vederlo direttamente realizzato. Quindi è un processo ancora aggiuntivo che ti permette di andare più vicino al capo finito. Ma voi nascete più sarti o più ingegneri? Questa è una domanda che ci fanno in tanti. Noi in realtà nasciamo ingegneri. Abbiamo imparato tanto però ad apprezzare la qualità e portarla direttamente online. Sulla moda e sul digitale c'è chi ha costruito una carriera da 4,8 milioni di follower su Instagram. Mariano Di Vaio, 27 anni, fashion blogger tra i più seguiti in Italia, ha raccontato la sua storia in My Dream Job. Diciamo che il libro cerca di sviscerare un po', di raccontare un po' quella che è stata la mia avventura e tutto il tragitto, il viaggio che ho fatto, che è stato proprio un vero e proprio viaggio, perché è iniziato con il partire di casa a 18 anni e da lì tutto un susseguirsi di avventure più o meno divertenti, più o meno piacevoli, che però hanno fatto sì che tutto ciò si realizzasse. Un tempo i fashion blogger erano mal visti da stilisti e case di moda, oggi non è più così, anzi vi cercano. Ci sono ancora quelli che sono un po' resti a capire questo mondo, ad accettare che noi, parlo di noi come me, i miei colleghi, insomma, che fanno il mio stesso lavoro, insomma, non siamo tanto bene accetti ancora in alcune situazioni da alcune persone, sono quelli un pochino più old school, le chiamo io, che vedono i blogger o comunque le persone che vivono sui social un pochino, non saprei come descrivertelo bene, però non le vedono molto bene nel mondo della moda, però tanti adesso anzi hanno capito che possiamo essere veramente un vento nelle loro vele, cioè io uso sempre questo paragone che mi piace molto, cioè noi possiamo essere tranquillamente il vento nelle vele delle idee dei grandi imprenditori, quindi possiamo aiutare e spingere le loro idee, i loro progetti, quindi io penso che sia solo una cosa positiva il rapporto che ci può essere tra noi e loro. Da blogger a influencer, oggi quella che hai costruito è una professione che ovviamente ti dà da vivere. In che cosa consiste nella pratica questa trasformazione? Sì, all'inizio era molto una passione. Io studiavo, ancora lavoravo, dopo che sono tornato dall'America dai miei studi di recitazione a New York ho continuato a studiare all'Università Perugia, che è da dove vengo, dove sono nato. Lavoravo da mio padre al negozio, poi piano piano sì è cominciato a diventare sempre più impegnativo, sempre più mi richiedeva sempre più tempo questo lavoro, e ho capito che o facevo una cosa o facevo l'altra, quindi piano piano ho cominciato a mollare il lavoro, a mollare gli studi, purtroppo, però è stata così. E adesso però sono contento perché ho tanti ragazzi giovani che lavorano con me, ho il piacere di dare lavoro appunto anche a questi ragazzi, è diventata una vera e propria professione, perché diciamo che è divisa in tanti aspetti, dallo sviluppo di marchi, come può essere il marchio delle scarpe o degli occhiali che ho creato negli ultimi 2 anni, allo sviluppo di contenuti, di progetti con i grandi marchi, come dicevamo prima, quindi è un lavoro molto creativo e interessante, credo che sia anche molto piacevole, perlomeno se uno è appassionato di moda. Tra pochissimo ancora con Mariano Di Vaio, nella seconda parte parleremo anche di Running Mania, subito dopo la pausa, restate con noi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, stiamo raccontando il mondo degli influencer con Mariano Di Vaio, viene considerato il corrispettivo maschile di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo. 28 anni per 10 milioni di dollari, prima blogger in assoluto al centro di un case study della Harvard Business School. La stimo tantissimo, è stata sempre un grande punto di riferimento sin da quando ho iniziato. Quando inizialmente ho aperto il blog non ero veramente a conoscenza né di quello a cui stavo andando incontro né di quello che stavo veramente facendo. Poi ho cominciato a guardarmi intorno e ho visto che personaggi come Chiara, che sono stati antesignani sotto questo punto di vista, e li ho presi proprio come punti di riferimento. Ci sono svantaggi nel condividere così tanti momenti della propria vita online? Altri si sono tirati indietro? Tanti artisti o comunque tante persone che sono in vista tendono a nascondere la propria vita privata. Io invece l'ho presa proprio al contrario, perché la normalità, la quotidianità è quella che forse un po' mi ha premiato. Sono sempre stato molto genuino io sul web, quindi mi sono sempre detto perché non far vedere cose che per me sono belle nella vita, perché tengo molto, come parlo anche spesso nel libro, a quelli che sono i miei veri valori, le mie radici. Quindi ci tengo a condividere queste cose con la gente. Il matrimonio come una vita privata, alcuni aspetti sono cose molto positive, quindi dico perché non condividerli. Focus sui trend. Lo sapete che 6 milioni di persone praticano abitualmente la corsa in Italia, il 55% sono uomini e il 45% donne, numeri importanti che danno il senso di un vero e proprio sport di massa, trasversale per età e per classe sociale, che è diventato anche un fenomeno di costume e di consumo. Ne parliamo allora con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Buonasera Paolo, tu corri? Buonasera, no, io non corro. Ecco, neanch'io. Tanto, però. Bravo. Cammino. Allora, decine di raduni, un mondo di prodotti e servizi dedicato. Inizierei, Paolo, se sei d'accordo, con il site running, la tendenza che unisce in qualche modo turismo e fitness, in pratica una formula che consente di visitare le città a passo di corsa. Esatto, infatti la parola stessa, site running, spiega anche il concetto, sightseeing e running, quindi andare in giro a vedere cose, però facendo anche un po' di corsetta. Esistono tantissimi siti, tantissime agenzie di viaggi che si sono proprio specializzate in questa attività. Quindi in pratica cosa succede? Ci si trova magari in un parco a fare un po' di riscaldamento, un po' di allenamento e poi via. Si parte con una guida di corsa tra un sito e un altro. Questo succede ormai in tutto il mondo, perché insomma succede a Roma, succede a Milano, succede a Venezia, ma chiaramente anche a Amsterdam, Copenaghen, Parigi, New York. La cosa interessante è vedere che si tratta di un'evoluzione della maratona. Per anni tantissime città nel mondo, prototipo è chiaramente la maratona di New York, hanno fatto a gara per avere la maratona più importante. Chiaramente era una sorta di happening per andare a scoprire la città, per visitare la città, per portare tanta gente. Diciamo che questo fenomeno, da grande evento, da grande fenomeno unico, è diventato, insomma, si è un po' sbriciolato, si è un po' distribuito sul territorio. La corsa, Paolo, è stata definita da molti lo sport della crisi, sei d'accordo? In un certo senso sì, diciamo che è nato come sport della crisi, perché alla fine basta una t-shirt, un paio di pantaloncini e un paio di scarpe buone che non richiedono un investimento folle e uno è pronto per correre. Possiamo dire che sia lo sport anche della generazione digitale, perché uno dei fattori di successo del running è sicuramente l'associazione con il digitale. Pensiamo agli iPod, ad esempio, o comunque i lettori portatili di MP3, la musica che aiuta, che sostiene, che incita, diciamo, che è una sorta di doping legale per riuscire a correre, ma anche poi tutte le app che grazie ai sensori, ai telefoni, ma anche grazie ai wearables come braccialetti, orologi smart, eccetera, consentono di avere una sorta di allenatore sempre con sé, oppure anche semplicemente di mescolare intrattenimento, divertimento, gioco e la salute. Una cosa molto interessante che è uscita da una ricerca recente è un dato molto curioso: il 97% delle persone che praticano running dicono di farlo per stare bene anche mentalmente. E la tecnologia, sappiamo benissimo, oggi la tecnologia è molto orientata anche alla promozione di uno stile di vita sano e addirittura della salute. Quindi, ok, lo sport della crisi, lo sport del digitale, lo sport anche del divertimento e del benessere. Altissimo tasso di condivisione, grande diffusione del tema sui social, che esplode ovviamente in occasione dei raduni, degli appuntamenti. Siamo passati dal grande evento, dalla grande maratona con milioni di persone, invece a eventi che possono essere legati a un weekend, che possono essere legati a un'occasione specifica, magari anche in alcuni casi ad eventi culturali o eventi gastronomici. È del 1° giugno scorso il primo Global Running Day, dicevamo Paolo, molta tecnologia anche negli accessori e nell'abbigliamento. Esatto, perché l'abbigliamento chiaramente ha, soprattutto l'abbigliamento sportivo, ha affiutato questo fenomeno e sta promuovendo, producendo e mettendo in commercio degli oggetti che sono veramente quasi fantascientifici, dai tessuti high tech che permettono di mantenere la temperatura del corpo sotto controllo, quindi permettono di traspirare molto facilmente, di far evaporare il sudore in maniera molto rapida, poi anche un contenuto di stile di un certo tipo. Ci sono tantissime collaborazioni di grandi marchi di abbigliamento sportivo che però chiamano stilisti di grido o stilisti emergenti o stilisti underground per disegnare delle linee specifiche per il running, ma con un alto contenuto di stile. Oppure abbiamo anche veramente la fantascienza più pura per la holiday season. Avvicinandoci al Natale di quest'anno, Nike metterà in commercio le Hyperlapse, che sono in tutto e per tutto le scarpe di Ritorno al Futuro. Ci ricordiamo Marty McFly, che si infilava le scarpe che si allacciavano da sole. Ecco, sono delle scarpe che si autoallacciano, self-lacing shoes, le definiscono loro, addirittura con una serie di LED nella suola e sul tallone, che aumentano anche la visibilità del runner, in particolare se si sta correndo di notte, ad esempio, o di sera, quindi quando si fa il passo il piede è estremamente visibile. Chiaramente all'interno c'è il contapassi, ci sono tutte le cose smart che possono fare anche i nostri braccialetti e i nostri orologi, quindi insomma un ritorno al futuro che è diventato presente. Una battuta finale: uno sport specchio dei tempi, siamo tutti di corsa. È vero, è verissimo, è verissimo. Però guarda, questo potrebbe essere l'argomento per un prossimo incontro. C'è anche un fenomeno che sta emergendo molto, molto chiaramente, che è il walking fast. Veramente assomiglia un pochino di più alla maratona ed è la passeggiata veloce che non arriva fino alla corsa, ma ne potremo parlare sicuramente un'altra volta. Certo, e provoca anche meno danni, perché io di amici ammaccati runner ne ho tantissimi e immagino anche molti degli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Sì, molto spesso i social di chi condivide i propri percorsi tutti i giorni con Runkeeper, con Runtastic, eccetera, si alternano: da oggi ho fatto questa quantità di chilometri, ho visto queste cose, e invece altri giorni dicono: oggi sono andato dal fisioterapista perché il ginocchio non ha fatto il suo lavoro. Grazie a Paolo Ferrarini, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, a questo punto il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato. Grazie Maria Luisa e bentrovati a tutti i radioascoltatori. La parola chiave di questa sera, me lo hai anticipato, è emergenza. Ci riferiamo alla pubblicazione di un piccolo libro molto importante, secondo me, di un filosofo, forse il più grande filosofo italiano in questa fase, che è Maurizio Ferraris, e che titola Emergenza, una riflessione non tanto sull'urgenza o sulla paura, come si potrebbe immaginare, ma l'emergenza sono proprio le cose che emergono, e proprio in copertina capiamo che cosa Ferraris intende, perché si rifà al proverbio prima o poi la verità viene a galla, no? Quindi ecco, è l'emergere della realtà, di quello che alla fine dobbiamo considerare il quadro di vita all'interno del quale muoverci, che non è opinabile, ma è concreto. Cito dal prologo, è un libro che parla anche della possibilità dell'impossibile. Sì, e in questo senso si allontana molto dalla classica visione postmodernista, dove invece, ecco, l'idea portante era bello è ciò che piace, le verità sono relative, insomma è il pensiero debole, no? Anche di Vattimo, che tra l'altro è stato il maestro di Ferraris, no? Entrambi di Torino, quindi interessante anche questo. La realtà emerge al di là delle nostre intenzioni, ma è vero anche il contrario, perché in modo inaspettato a volte emergono tendenze, noi studiamo questo e anche i consumatori sono in grado di cogliere questo passaggio, emergono fenomeni non aspettati, magari anche positivi. C'è anche, dimmi Francesco se sbaglio, una, in qualche modo una messa in discussione dell'io, del soggettivismo, quindi di questi tempi una riflessione importante in questo senso. Sì, perché alla fine l'emergere della realtà è più un'espressione di un sistema di relazioni che non di soggetti isolati. Ognuno di noi è in questa rete, anche straordinariamente affascinante, no? E la rete non solo è il web, ma è la rete delle nostre relazioni. Ognuno di noi può emergere magari con un'idea, con un progetto, ma deve sempre fare i conti con il sistema all'interno del quale siamo inseriti. E anche, insomma, la capacità di cogliere i segnali che emergono dai vari contesti. Eh sì, cerchiamo di trasformare il nostro opportunismo tipicamente italiano in opportunità. Ecco, questo credo che rimanga l'indicazione chiave anche per chi lavora nelle aziende. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.